Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, si fa un gran parlare della Costituzione, agitandola come l'ultimo baluardo contro la barbarie. Eppure non c'è niente di più evidente del suo completo fallimento. Infatti converrà con me che ogni giorno abbiamo la dimostrazione dell'assenza di coesione fra tutte le categorie sociali, a cominciare da quelle più citate dai giornali e dalla TV. Anche nei rapporti fra le singole persone, se escludiamo gli ambiti privati e di amicizia, l'apertura e disposizione alla collaborazione sono diventate una rarità. È davvero questo il livello di identità nazionale e di legame civile che vogliamo? È soddisfacente che sia la nazionale di calcio il massimo senso di appartenenza a questo paese? Ma qual è lo strumento principale che avrebbe dovuto identificare e diffondere i valori condivisi di base di una società dei quali denotiamo invece l'assenza? Mi creda, prima prendiamo coscienza di questo fallimento, prima possiamo iniziare a ricostruire questo paese da fondamenta più solide ed efficaci. Suggerisco di iniziare con valori che abbiano una validità più universale: libertà, giustizia, solidarietà. Ognuno di questi con la stessa dignità. Mi sento di affermare che la loro validità è sicuramente più ampia dell'attuale principio fondante dello Stato. Vogliamo infatti considerare quanti lavori inutili o addirittura dannosi si svolgono in Italia? Quando capiremo che non è il lavoro che dobbiamo proteggere, ma gli esseri umani che lo svolgono? Alberto. Caro Alberto, che il nostro paese abbia qualche problema di coesione sociale penso sia un giudizio ampiamente condiviso. Ma dare la colpa alla Costituzione, in particolare al primo articolo della nostra Carta fondamentale, mi sembra del tutto infondato e anche pericoloso. Perché se è vero che il richiamo al lavoro costituisce indubbiamente un valore venato di vecchie ideologie, è altrettanto vero che tutta la prima parte della Costituzione è costruita attorno ai valori di libertà, giustizia e solidarietà che lei ritiene fondamentali. Ma non bastano certo le regole di principio e di garanzia, come di fatto è una Costituzione. Quello che conta sono i comportamenti e i valori coerentemente vissuti dai cittadini. E allora bisogna forse dire che questo nostro paese deve riuscire a superare questo allarmante periodo di continue contrapposizioni, di forzato bipolarismo, di accesa conflittualità. Certo, ci sono ora le elezioni e le elezioni sono un momento di forte affermazione delle singole identità, ma dopo le elezioni dovrebbero tornare in primo piano gli interessi del paese e tutti siamo chiamati a difendere la solidarietà e la coesione sociale. Consideriamo così il nostro lavoro, un lavoro per il bene comune. Visto che il compito della giustizia è perseguire i reati e assicurarsi che il reo non possa nuocere alla società, non sarebbe opportuno inserire un elemento di economicità nell'attività della magistratura italiana e valutare, a fronte degli elevati costi della stessa, i risultati a cui i pubblici ministeri sono pervenuti? Come il caso Romeo insegna e come dimostrerà anche il sicuro giudizio di secondo grado, vi saranno ingenti costi e scarsi o nulli risultati. Vista la penuria di mezzi con cui la magistratura italiana pare convivere, non sarebbe opportuna una riforma all'americana, con un procuratore generale che a fronte di un'indagine possa anche stabilire il rapporto beneficio-costi della stessa prima di mettere piede in un tribunale? È una cosa fattibile oppure ho visto troppe puntate di Law and Order? Vorrei intervenire sull'argomento mala magistratura del quale vi siete occupati ieri mattina. Partirei dalla grande procura partenopea, sempre allerta, dal caso Tortora in poi. Di primo acchito mi viene in mente il caso pedofilia di qualche anno fa. Partendo dall'indagine su di un tassista, la grande procura partenopea aveva niente poco di meno che smascherato la pedofilia internazionale, dal Manzanarre al Reno, dalle Alpi alle piramidi. Come finì? Ovvio, con un nulla di fatto, ma la procura partenopea è così. Lei ci prova, vuole risolvere il caso del mondo. Scherzi a parte, io in tutte queste cose, ed avendo un'età, vedo un quasi unico filone, l'ipocrisia dell'Italia. Nella maggior parte dei casi questi episodi servono di volta in volta a eliminare qualcuno in modo non cruento, visto che basta una piccola denuncia, il resto viene da sé. Si pensa sempre che uno sia guidato dall'alto. Invece io mi sono fatto l'idea che sia sufficiente mettere degli ingredienti giusti e il resto viene da sé. Funziona così, per non dare l'appalto a una certa ditta, per eliminare un politico, eccetera. In un paese dove nessuno vuole assumersi la responsabilità di applicare le leggi, che pure ci sono, l'unico modo per arrivare a qualche scopo è utilizzare la magistratura, che ben si presta, essendo convinta di poter raddrizzare il mondo. Ci sarà pure un modo per valutare la produttività della magistratura, per stabilire quanto si spende e cosa si ottiene. Penso di sapere come finirà la discussione. Si dirà che la magistratura può sbagliare, che è lo scotto che dobbiamo pagare per avere uno Stato presente che controlla, eccetera. È una cavolata pazzesca. Io penso che il voto faccia parte del mondo illusorio di cui siamo parte, perché chi decide di noi è in realtà la massoneria. Per questo i candidati sono sempre solo due, destra e sinistra. Altri candidati non esistono. Però non riesco a capire perché i giornali siano così poco giusti, mettendosi a urlare e sbraitare per portare alla ribalta casi come quello che avete citato, e non parlano mai di cose molto ma molto più serie, come ad esempio le inchieste sul traffico di armi delle banche o gli intrallazzi delle case farmaceutiche. Forse la spiegazione si trova nell'impossibilità di fare silenzio, di dover riempire gli spazi con cose sempre nuove. Quindi non si perde tempo a riabilitare, ma si riempie con altro. Altro ancora e ancora altro. Gemma. Quelli del caso Tortora erano magistrati della Procura di Napoli che il 17 giugno 1983 ordinarono un blitz che portò in carcere 855 persone. Ben 90 di questi erano stati arrestati erroneamente a causa di omonimie non controllate preventivamente. E fu proprio per un caso di omonimia che i magistrati napoletani tennero in carcere Tortora per oltre 7 mesi. E alla fine, dei 243 imputati del troncone dell'inchiesta legata al caso Tortora, solo 77 finirono condannati in appello e poi in Cassazione. In pratica, 2 su 3 furono assolti. I 2 PM che ordinarono gli arresti hanno proseguito la loro carriera, uno al CSM, l'altro alla Direzione Nazionale Antimafia. Il giudice estensore della sentenza di appello è stato mandato a dirigere la Procura di Campobasso. Un referendum votato dalla maggioranza degli italiani chiese di abrogare le norme limitative della responsabilità civile per i giudici. Quel referendum venne tradito dalla legge Vassalli dell'anno successivo. Tommaso. Il Papa, i cardinali e gli altri della gerarchia ecclesiastica hanno il diritto di dire quello che vogliono, nei limiti imposti dal codice penale. Ma perché noi diamo così tanto rilievo alle loro dichiarazioni? Ignoriamoli, mettiamo un muro di silenzio come argine alle loro ciance. Lasciamo che questi cattolici si parlino addosso, nella speranza che prima o poi gli si secchi la lingua. Maria. Volevo esprimere un parere sull'intervento di Aldo Busi lunedì scorso alla vostra radio. L'ho trovato non solo di nessun interesse, ma anche irritante. La solita sparata dell'intellettuale, anche se lui ha detto che chiunque può esserlo, basta che si occupi del bene comune, tesi oltremodo opinabile, che pretende di esprimersi su qualsiasi argomento, su cui magari non sa nulla, come ad esempio scienza, ricerca, eccetera, mentre è ben chiaro che il metro di giudizio con il quale misura la realtà è solo se stesso. Fazio è da snobbare semplicemente perché non l'ha invitato. La povertà si sta diffondendo perché quando lui è andato a fare la spesa al supermercato c'erano solo 3 persone. Era un lunedì alle 13:30. Ma lo sa che la gente è al lavoro oppure semplicemente sta pranzando a casa? Che approccio scientifico. Ha avuto un'altra opportunità di insultare il Papa, pardon, tutto il papato. Dichiara di non ascoltare la radio perché gli dà fastidio il chiacchiericcio, ma il suo è altrettanto fastidioso e non si capisce da che pulpito possa fare la sua predica. Da quella di uno scrittore che non trova nulla di meglio per far parlare di sé che partecipare ad uno stupido reality? Non è mia abitudine scrivere, né tantomeno telefonare a trasmissioni radiofoniche, ma per una volta voglio dire che la sera, dopo una giornata di lavoro, non tutti hanno voglia di sentire il personaggio televisivo di turno che dice un sacco di sciocchezze. Se a dire tutte quelle cose fosse stato un cittadino qualunque, gli avreste troncato la parola. Silvia. Basta, non ne posso più, dei numeri al lotto sui partecipanti alle manifestazioni. A Londra, nel settembre del 2002, ho partecipato a una manifestazione. Tutto era semplice. C'era un grande arco sulla strada dove passavano i manifestanti prima di entrare in una grande piazza. E c'era un sistema che li contava. Perché non lo attuiamo anche da noi? Così non ne parliamo più. Ubaldo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci